La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al Gronchi Rosa, il francobollo più famoso d'Italia, emesso e ritirato nello stesso giorno, il 3 aprile del 1961, perché conteneva un errore che provocò non pochi imbarazzi ai vertici dello Stato. Scopriamo di che cosa si trattò insieme al nostro ospite, Franco Filanci. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Si celebra quest'anno un anniversario tutto particolare, che a prima vista sembra coinvolgere solo gli appassionati di filatelia, ma che in realtà riveste un significato anche dal punto di vista storico e sociale. Ricorrono i 50 anni del francobollo più famoso d'Italia, il Gronchi Rosa, un francobollo speciale che venne emesso e ritirato il giorno stesso. Era il 3 aprile del 1961. Venne ritirato perché conteneva un errore. Riportava l'inesatta riproduzione dei confini del Perù, paese in cui l'allora presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, stava per recarsi in visita ufficiale. Ne nacque un caso politico-diplomatico che provocò non pochi imbarazzi ai vertici dello Stato. Nel 1960 il presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, riceve la visita dei presidenti di Argentina, Perù ed Uruguay. Il cerimoniale del Quirinale fissa nell'aprile del 1961 la visita di restituzione di Gronchi, evento che lo Stato italiano decide di celebrare con la pubblicazione di tre bolli postali: 170 lire di colore azzurro per l'Argentina, 185 lire di colore verde-grigio per l'Uruguay, 205 lire lilla rosa per il Perù. Si decide di autorizzarne la vendita a partire dal 3 aprile, lunedì di Pasqua, per favorire l'affrancatura da parte dei collezionisti su buste destinate a viaggiare sull'aereo presidenziale, che avrebbero beneficiato dell'annullo speciale predisposto per il volo. Poi, il colpo di scena. L'ambasciatore peruviano in Italia, Alfonso Arias, visiona in anteprima la serie dei tre francobolli commemorativi e, con grande stupore, nota che nella vignetta del 205 lire lilla rosa i confini a nord del Perù non sono esatti. Risalgono a prima del 1942, anno in cui era stato annesso il territorio denominato Triangolo Amazzonico, sottratto ai confini ecuadoregni. È un errore che rischia di provocare, dicevamo, un serio incidente diplomatico a soli due giorni dalla partenza del presidente Gronchi per il Sud America. Errore che cade su una questione molto delicata, poiché il Triangolo Amazzonico è da 20 anni oggetto di rivendicazioni da parte dell'Ecuador. L'assenza nel francobollo rischia dunque di apparire come una delegittimazione della sovranità peruviana su quel territorio. Ma come si è determinato il clamoroso errore? La risposta è sconcertante nella sua semplicità. Il disegnatore incaricato del bozzetto, Renato Mura, si era basato sulle cartine geografiche di un atlante De Agostini del 1939, quindi di 3 anni antecedente la questione del triangolo amazzonico. Di fatto, si decide di eliminarlo fisicamente dalla circolazione prima che sia entrato in corso di validità. Il 5 aprile si corre ai ripari, ricoprendo tutti gli aerogrammi giunti alla stazione Termini di Roma con un nuovo valore, stavolta grigio, emesso a tempo di record, questa volta con i confini peruviani corretti. Non era mai accaduto nella storia della filatelia. Alcuni esemplari sfuggono però all'operazione, diventando così il pezzo più ambito dai collezionisti filatelici italiani. Il Gronchi Rosa diviene uno status symbol, un pezzo unico da esibire. Ma quanti sono gli esemplari del Gronchi Rosa sfuggiti al ritiro e in circolazione presso i collezionisti? Nel 1966 le Poste stimarono gli esemplari in 79.625, ma secondo altre stime sarebbero molti di più. Un caso clamoroso, dunque. Ne parliamo con Franco Filanci, che è autore della pubblicazione periodica Storie di Posta, editore unificato, che è la rivista dell'Accademia Italiana di Filatelia di cui è presidente. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Prego. Allora, abbiamo raccontato questa storia molto singolare che i filatelici conoscono molto bene. In realtà, nel rievocare l'episodio, in realtà abbiamo scoperto che poi si trattò di un errore umano, quindi del tutto, diciamo, comprensibile. E tuttavia, come fu possibile? Cioè, non c'erano dei controlli su francobolli che poi venivano emessi? Ma i controlli ci dovrebbero essere, come in tutte le cose, però evidentemente quel piccolissimo particolare, il triangolo mancante è veramente microscopico, lo poteva vedere solo un interessato, che evidentemente è sfuggito. Ma ecco, si sa a questo punto a quanto ammontano gli esemplari del Gronchi Rosa in circolazione? Perché appunto non è chiaro, forse lei ci può chiarire questo aspetto. Ma il dato che lei ha citato per primo, quello di 70, sì, mi pare 9.000 esemplari, forse 69, adesso non ricordo più, era stato scoperto dalle poste stesse, calcolando tutti gli esemplari che erano stati venduti. Allora, chiaramente di questi esemplari una certa parte abbastanza minima era stata usata per posta, per attraccare le famose buste, e non solo quello, perché qualcuno ha anche affrancato delle lettere per l'interno, normali, che non dovevano viaggiare, e quelle sono state annullate tranquillamente. Ecco, ma noi abbiamo posto in luce il rischio che si è corso in quel lontano aprile del 61, che si creasse addirittura un incidente diplomatico. Ma non era un po' esagerato che un francobollo creasse tanti imbarazzi ai vertici dello Stato? Ma i francobolli hanno creato imbarazzi in passato. Del stesso periodo c'è per esempio un francobollo italiano, ma ve ne sono di altri paesi, per l'anno mondiale del rifugiato, che veniva respinto dalle poste dei paesi dell'est perché lo trovavano un'offesa per loro. Ci sono corrispondenze che con quei francobolli sopra, respinti al mittente, non sono potute arrivare a destino. Altro caso del genere avvenuto più di recente con l'Iran, per esempio, dei nostri francobolli dove ci vedevano dei seni. Oddio, non erano ammessi, le poste, le lettere sono state respinte. Quindi di questi casi ce ne sono abbastanza nella storia, più o meno divertenti. Senta, ma nella storia della filatelia, a parte gli errori, quali sono a sua memoria i francobolli che hanno accompagnato eventi importanti della nostra storia unitaria negli ultimi 150 anni? Certamente ce ne saranno stati, perché ogni passaggio importante, visita di capi di Stato, ma anche eventi, immagino e ricordo ad esempio le Olimpiadi del 60, per dirne una, i francobolli hanno in qualche modo rappresentato pezzi della realtà del nostro paese. Sì, questo è vero, bisogna tener conto che la posta fino a 30 anni fa, quando non c'era stata ancora una forte diffusione del francobollo, del telefono, telefonine e tutte internet, era il mezzo di comunicazione più importante. Era normale, per esempio, che una famiglia che aveva dei parenti in un'altra città tutte le settimane scrivesse, tutte le settimane no, o una volta ogni due settimane, scrivesse la classica letterina con le informazioni: io sto bene, la nonna c'ha raffreddore, cose di, certo, questo genere. E era veramente l'unico mezzo, ancora fino a ventennio fascista, tutto si basava sulla posta per le comunicazioni. Il telefono c'era già dalla fine dell'Ottocento, però era una cosa riservata al commercio, alle industrie, a pochi snob. Certo, poi basta ad esempio ricordare l'importanza che ebbe questo strumento durante la Prima Guerra Mondiale, quando i nostri soldati al fronte comunicavano con le loro famiglie soltanto attraverso la posta, e infatti ci sono diari che vengono pubblicati regolarmente e che quindi hanno un interesse enorme dal punto di vista storico. Sì, viaggiavano oltre, mi pare, 2 milioni di corrispondenze al giorno dal fronte al paese e viceversa. Era l'unico mezzo con cui c'era un contatto fra il povero soldato al fronte e la sua famiglia. Anzi, per agevolarlo, per la prima volta venne concessa la franchigia, cioè potevano scrivere gratis usando speciali cartoline. In precedenza, oltre a stare in guerra, a correre i rischi, dovevano anche pagare la posta, almeno la facevano pagare alle famiglie. Ecco, ora veniamo ai nostri giorni, ma la filatelia nell'era del web e delle informazioni vertiginose in tempo reale attraverso internet continua ad avere un fascino? Ma certo, perché la sua funzione iniziale, che era di rappresentare il pagamento della tassa postale, fin dall'inizio è stata affiancata da altre ragioni. Non se ne parla molto, ma fino al primo francobollo, in un'epoca in cui la stampa era poco diffusa e la fotografia attraverso la stampa ancora meno, e rappresentava una comunicazione di per sé stesso, cioè il francobollo con la regina diceva: qua comanda questa signora. Durante le guerre, la velocità con cui venivano soprastampati i francobolli del posto col nome dell'occupante volevano dire: adesso qui comando io. Cioè, c'erano già delle ragioni diverse, oltre a quella, diciamo, basilare di pagare una tassa postale. E continua questo anche ancora oggi. Quanti sono oggi gli appassionati di filatelia, più o meno, nel nostro paese? Difficile dirlo. È una domanda un po'... L'unico che potrebbe saperla con una certa precisione sono le poste, se calcolassero quanta gente vende, certo. A quanta gente vendono attraverso gli sportelli filatelici, purtroppo non lo fanno, si va per ipotesi che variano enormemente, quindi non ne cito nemmeno una che è più seria. Va bene, molte grazie allora, la ringraziamo per questi chiarimenti, buona serata. Grazie a voi, arrivederci.